notte di luna, notte inargentata, dorme Fidenza la pallido chiarore, cantando amore, va la serenata, passa lontana e sembra canti a te. Notte di luna, notte fiorentina, tu sola sembri fatta per amare. Ed ogni amante non ti può scordare, come la prima bocca che baciò. Tutto è un incanto, l'aria è profumata, ogni Madonna schiude il suo velo. Sospira il cuore che cerca un altro cuore, e gli dirà: ti voglio tanto bene. Giardini in fiore, ville addormentate, Firenze un incantesimo d'amore, ombre d'amanti, frasi sussurrate, tutto qui attorno in vita per sognare. L'aria è profumata, ogni Madonna schiude il suo velo. Sospira il cuore che cerca un altro cuore, che gli dirà: ti voglio tanto bene.